dalla solita bibliografia e la tematica che abbiamo per l'occasione. Il tema scelto questa sera dal professor Pugliese, che insegna in una scuola a Pecolzano e che si occupa anche della formazione dei docenti, è quello legato al Mediterraneo, quindi un tema attualissimo, il nostro mare che è attraversato da viaggi che hanno come scopo quello di scappare da territori problematici e da situazioni tragiche, per arrivare però poi ad approdare sulle coste, in ultimo quella italiana, che ripropongono altri problemi di diversa natura, ma che sicuramente fanno fatica anche ad affrontare questo movimento di persone. E oltretutto dietro a questi momenti ci sono non solo guerre, non solo incredibili interessi economici internazionali, ma anche tragedie umane a cui non riusciamo sempre a far fronte. Il nostro mare, che quindi è anche purtroppo diventato una tomba di innocenti, in particolare penso ai bambini, ma che appunto questo fenomeno ha delle radici molto più profonde e più complesse, che cercheremo questa sera con l'aiuto del professor Pugliese di iniziare a dipanare. Per approfondire il tema, come già dicevo, abbiamo sempre delle vetrine tematiche, vi invitiamo poi a tornare in biblioteca in via Mendola 5 dell'argomento, ci troviamo e siamo operativi per segnalarvi altri documenti o eventualmente essere a disposizione per recuperare i libri che vi sembrano utili per la vostra ricerca. Vi segnalo due appuntamenti, quello di giovedì 6 aprile, sempre in questa sala alle ore 18, dove avremo invece una conferenza di storia dell'arte in collaborazione con il FAI. Sarà il nostro ospite Salvatore Montilla insieme a Sabrina Cazza, e il titolo della conferenza e presentazione del libro sarà Parole e visioni della modernità. È una conferenza appunto di storia dell'arte organizzata con il FAI. Lunedì invece 10 aprile torneremo di nuovo sul tema di Magnus, visto che è stato beatificato e in questo momento tante sono le iniziative anche teatrale e anche di conferenze. Avremo con noi Paolo Vivalente e Hannes Obermeier, che ci presenteranno il libro Fedeltà e coraggio, la testimonianza di Josef Mayr-Musser. Questo appuntamento è di lunedì prossimo, 10 aprile, sempre qui alle 18. A me non resta che dare la parola al professor Pugliese, che ringrazio ancora della sua collaborazione con la biblioteca, e ringrazio tutti voi di essere qui presenti per il nostro nuovo appuntamento. Buona serata. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere qui. Mi ha già presentato molto bene la direttrice, e io ho deciso di fare un mini ciclo di conferenze andando a puntare sulla Vodafone, no, perché già loro hanno le loro pubblicità, e di puntare sul Mediterraneo, perché ultimamente si sente parlare tantissimo di mar Mediterraneo e di che cosa sta succedendo adesso. Io invece sono partito con due iniziative. La prima, che è quella di stasera, arriveremo dalla storia all'oggi, e nella seconda invece parleremo solo dell'oggi. E racconterò delle cose di storia particolari, degli aneddoti, e soprattutto vedo dei ragazzi giovani da te. E non sarà la solita lezioncina sciocchina di storia della serie c'era prima quello e poi è arrivato l'altro, ma cercheremo di fare un discorso di incroci, cioè ci saranno più materie, dall'analisi alla storiografia, alla storia appunto, eccetera. Io ho anche preparato un materiale che poi vi potete prendere, con lo scheletro di queste due iniziative che ho preparato. Quindi troverete delle macro aree e delle micro aree, e le micro aree le ho chiamate anche scenari, perché il Mediterraneo non è uno scenario unico, ma sono più scenari uniti, cioè è abbastanza complessa la storia, e soprattutto troverete il percorso che facciamo in questi due incontri. Nel secondo vi ho messo un mio articolo, e non pesante, ma comunque che va a pensare quello che è oggi il Mediterraneo anche da un punto di vista strategico per il nostro paese, che è l'Italia. Questo articolo io non l'ho scritto per una rivista di storia, eccetera, ma l'ho scritto per una sorta di associazione che si occupa solo di economia internazionale, di geopolitica, eccetera, e quindi è un articolo di analisi anche in prospettiva di asset futuri. Ne ho parlato anche con l'anno scorso con l'allora ministro degli esteri Gentiloni, che adesso è il premier. Mi è capitato di intervistarlo e gli ho fatto qualche domanda su come l'Italia dovrebbe porsi in un contesto che per logica è un po' casa nostra, il Mediterraneo, diciamo, da svariare sempre. Quindi questi due... Quando è questo secondo incontro? L'11 di maggio. Sì, 11 di maggio, sì, poi io vi ho ben, mi sono permesso di mettere già le due date, così sapete, e il discorso di oggi comunque può anche, l'ho fatta in due moduli, come si fa all'università, nel senso che, come si fa oggi all'università, nel senso che sono tutte e due indipendenti, cioè se una persona vuole solamente seguire la questa o seguire quella o seguire la prossima lo può fare, non sono per forza interconnesse, però per arrivare all'oggi bisogna parlare di quello che è successo ieri. A differenza di altre volte che vedo che qualcuno a qualche mia conferenza era venuto, e ho preparato anche delle slide. Io di solito non è che ami molto, cioè preferisco, però il tema è talmente complesso che mi sembrava sbagliato parlarne come se fosse una storiella, e quindi memore di alcune persone che le altre volte mi hanno richiesto anche dei materiali che sono contento di mandare, anche queste robette che trovate qui, se poi mi date l'email io ve le posso spedire tranquillamente. Questa è semplicemente sono delle semplici slide di storia del Mediterraneo, che vi ho anche messo per chi fosse interessato, le fonti e i percorsi. Questo approccio qua è un approccio, tra virgolette, abbastanza nuovo, di come si, cioè lo spiego anche agli insegnanti di solito, cioè si parte sempre da un libro e si arriva poi a fare un tipo di ragionamento. Il percorso in questo caso del Mediterraneo non poteva che partire anche da libri antichi, che possono essere in questo caso l'Odissea, l'Eneide. Ho messo questi, ma potevo metterne altri, ho messo quelli che secondo me sono quelli significativi, quindi non sono questi solo quelli significativi, avrei potuto prenderne anche altri. E ovviamente qualcuno magari poi a fine conferenza potrebbe anche dirmi che la conferenza magari l'ho puntata molto sulla civiltà occidentale / greco-romana. In realtà lo faccio perché vorrei dare una spiegazione anche a determinati comportamenti che può avere oggi l'Europa, il perché siamo arrivati a determinati comportamenti, e lo troviamo proprio nella nostra storia. Quindi questa è una semplice, non è niente di che. Qui ho messo anche in letteratura, perché giustamente si possono trovare anche in autori che appaiono non sempre attaccati alla geopolitica, ma in realtà un tempo non si chiamava così, ma ci sono stati degli autori che si sono occupati tantissimo di geopolitica. Quindi troverete anche qualche nome interessante. Ho messo tutto. Beh, vabbè, uno dei più importanti lo trovate scritto per primo. Il Mediterraneo, civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, è un mattone, per chi è più giovane, magari. Però sono libri che magari a pezzi, io consiglio sempre di non leggerli tutti in un fiato, perché sennò ti butti dalla finestra insieme al libro, di leggerli magari a pezzi, nel senso che possono anche essere estrapolati dei capitoli. E se volete anche questo è un bel libro che poi consiglierò alla biblioteca, Occidente, nel senso che qua spiega esattamente le differenze di tutto il mondo occidentale, però lo fa da un punto di vista di civiltà occidentale, quindi non divide italiani, spagnoli, francesi, ma spiega perché abbiamo determinati modi di pensare diversi, eccetera eccetera. E Ferguson ovviamente non è italiano ma è inglese, e gli inglesi sapete che hanno un ottimo approccio alla storia, nel senso che loro sono molto analitici quando si tratta di loro, e soprattutto riescono a fare un discorso, riescono ad esternarsi alla propria storia e a dare anche dei giudizi abbastanza negativi. I nostri storici sono bravi, però purtroppo si inceppano, come sapete tutti, nel periodo intercorso il secolo scorso, quindi fanno un po' di, vanno in confusione quando si parla dal 22 al 45, vanno quasi tutti in confusione per un motivo o per l'altro, per chi ama quel periodo, per chi lo odia, e molte volte si è non riescono a dare un giudizio obiettivo su quello che scrivono. Nel paradosso, Gramsci, che era schierato politicamente, fece un bello spaccato dell'Italia del periodo fascista. Però io consiglio sempre di leggere entrambi, quindi leggere Gramsci e leggere Bottai, che per il fascismo è stato un luminare intellettuale, eccetera. Quindi sempre leggere tutte e due le campane e poi fare un bel riassunto. Allora, io qua sono partito da circa 4.000 anni fa, qui c'è scritto 3.000, in realtà sarebbero 4.000 secondo me, e Tigre e Eufrate è una zona che al giorno d'oggi voi conoscete abbastanza in stato di confusione, quindi lo chiamano Iraq, ok? Poi c'è l'Egitto, questa zona qui a livello geopolitico sono circa 3.500 anni che ha dei problemi, e in questo periodo qua non si possono dare neanche colpe al colonialismo perché non c'era, quindi c'è una civiltà avanzatissima. I problemi che abbiamo oggi non che derivino direttamente dai Sumeri, poverini, che non è che avessero grandi colpe, però in realtà la nostra civiltà, ad esempio nelle scienze, nella matematica, nell'astronomia, prende spunto, o comunque grossa fetta, da queste civiltà qui. Quindi proprio il dividere anche la scienza in più settori lo hanno iniziato a fare i Sumeri, che si occupavano di matematica, di astronomia, eccetera eccetera. In realtà lo facevano anche gli egiziani, ma poi ci mettevano dentro moltissimo la religione, anche i Sumeri, perché si parla di re serpente, invece gli egiziani il re sole, no? Avete presente quelle? E chiaramente è un pensiero totalmente diverso da quello greco, che invece era un po' più razionale, anche se Platone è razionale ma fino a un certo punto, perché dal nostro punto di vista scientifico nel Timeo ti parla di Atlantide, e ogni professore che di filosofia, se voi siete giovani e fate filosofia, chiedete ai vostri professori cosa pensano di quella parte del Timeo, non ti dà la risposta, perché Atlantide sembra che sia una favoletta, però un personaggio come Platone ne parla. Quindi da un punto di vista anche scientifico, cioè fa un discorso anche abbastanza articolato su come è strutturata l'isola di Atlantide, cioè il continente di Atlantidea. Quindi è tutto abbastanza relativo delle volte in storia. Comunque, tornando al discorso, qui il Mediterraneo è preso di striscio, nel senso che la parte importante è la mezzaluna fertile, no? La Mesopotamia, la terra tra due fiumi, e poi c'è l'Egitto. Ecco, l'Egitto è una delle prime potenze anche mediterranee. Non che siano bravissimi a costruire navi, però riescono a imporre nel bacino orientale del Mediterraneo un certo qual tipo di egemonia. Saranno poi i Fenici, sempre originari di questa zona, a dare là a quello che noi possiamo chiamare un commercio anche di tipo moderno, perché loro prenderanno la scrittura commerciale sumera, la modificheranno, quindi il primo alfabeto serio lo hanno costruito i Fenici semplicemente per scambi commerciali. Quindi avremo delle protocolonie, non si chiamano proprio colonie, in realtà sono delle protocolonie, perché di fatto quando le navi fenice vanno in un porto, il porto se lo sono costruite loro, è difficile che usino un porto preesistente perché non esistevano. Quindi sono stati è stato il primo popolo commerciale, quindi che puntasse tutto sul commercio, esercito ai minimi termini e potenza commerciale. Il popolo fenicio, da cui poi sono avuto origine Cartagine, anche una ex colonia fenicia, anche in Italia abbiamo avuto, in Sardegna, nel sud Italia, insomma parecchie colonie fenicie. E cosa diede all'Occidente? Diede appunto il commercio, nel senso che sono stati proprio loro ad inventarlo, anche se il popolo sarebbe stato di origine orientale, noi lo chiamiamo orientale, in realtà era molto occidentale il popolo fenicio. Un po' sopra abbiamo l'Anatolia, quindi la Turchia, l'odierna Turchia, e poi di fianco abbiamo la Grecia. La Grecia a quel tempo lì, a parte qualche film che ci vuole far passare come il paradiso terrestre, in realtà era una terra abbastanza grezza a livello culturale, nel senso che lo si vede anche se si legge Omero, quei re che voi vedete, anche Agamennone e Menelao, sono tutto perché delle persone di cultura, sono rozzi, basano tutto sulla violenza, la moglie non vale nulla, perché poi infatti qualcuno quando torna a casa verrà ucciso addirittura dalla moglie. Quindi anche in questi poemi giganteschi noi abbiamo ben chiaro come funziona la società greca, che è già così e rimarrà così. Infatti a me ha fatto un po' specie quel film che è uscito 300, perché in realtà lì si fa vedere il greco che è Eleonida, quindi il re, che è molto aperto e che va in guerra per la... e dall'altra parte si fanno vedere i persiani che sono un pochino barbari. Nella realtà delle cose è invertito, nel senso che i greci erano quelli indietro e i persiani erano quelli avanti, perché se è vero che Atene aveva una serie di legislatori molto imponenti e importanti, in realtà la chiusura mentale politica del greco medio era pazzesca, nel senso che qualsiasi tipo di cultura, oggi lo diremo proprio razzismo, qualsiasi cultura al di fuori addirittura dell'Attica, perché si discuteva addirittura sui dialetti e sulle lingue, anzi, era considerato nullo. Infatti la parola barbaro sta creata lì, persone che balbettano il greco, vuol dire. Quindi per i greci sono barbari anche i romani, anzi i romani saranno i barbari che li conquisteranno militarmente, ma come disse qualcuno, il giorno in cui le legioni romane entrarono in Grecia furono conquistate dalla Grecia, quindi dalla sua saggezza, che venne poi trasmigrò a Roma. Diciamo che Roma, e per chi studia storia è bene che lo sappia, di tutte le civiltà antiche è quella che non è antica, nel senso che c'è completamente uno stacco con le vecchie, con le antiche società che possono essere queste. I romani, quindi, fin dai primordi, anche loro pastorelli, un po' violenti, perché anche il popolo latino, perché poi loro si fonderanno con i latini, non sarebbero in realtà latini i romani di Roma, non sono solo di Roma, ma i latini che ci abitavano intorno daranno poi la lingua, ma nella realtà è una fusione. Cioè, quello che Roma fece in Italia, e avete presente quando si va alla scuola primaria, elementare, ci sono quei libri di storia che vi fanno vedere l'Italia preromana, gli Equi, i Volsci, quelle popolazioni che chi se ne frega, che non le studia mai nessuno, ma in realtà quelle popolazioni che sono il nostro patrimonio, che oggi chiameremo regionale, sono andate tutte a fondersi con poi quella che è stata la cultura romana. Poi Augusto ha dato all'Italia un attimino la divisione regionale come la trovate oggi, addirittura, perché le regioni d'Italia le ha disegnate Augusto per poter meglio controllare, prima Cesare poi Augusto. Nella pratica le popolazioni, fa sorridere perché spesso se lo dice un leghista ci rimane male, ma in realtà una delle popolazioni che avrebbe voluto più di tutti la cittadinanza romana furono i Veneti, che si scontrarono tantissimo con i romani, perché Roma aveva il confine e sopra era considerata provincia, quindi il nord Italia era considerata provincia e i provinciali avevano meno diritti. Fu poi Augusto a inglobare anche la provincia cisalpina, dove ci siamo anche noi, dove ci saremmo stati anche noi. Quindi vedete la relatività della storia, e in tutto questo il Mediterraneo diventa a un certo punto il lago di Roma, perché Roma sarà l'unico momento della storia in cui tutte le sponde del Mediterraneo parleranno la stessa lingua, il latino, avranno le stesse leggi e avranno quasi gli stessi usi e costumi. Dico quasi perché i romani, in maniera intelligente, non andranno mai a distruggere del tutto le culture che c'erano prima di loro, ma cercheranno di andare. Qualcuno scuote la testa? Cartagine l'hanno distrutta. Beh, Cartagine l'hanno distrutta per due motivi. Uno, perché Cartagine avrebbe fatto lo stesso con Roma, ma non è stata in grado. Due, perché i cartaginesi non avevano assolutamente intenzione di diventare una semplice provincia. Anche Gerusalemme fu distrutta, però Cartagine rappresentava una potenza quasi a livello, praticamente pari a Roma, quindi tenerla in vita l'avevano già fatto una volta, l'errore poi si era ripresentato con Annibale, e quindi era logico che una popolazione come quella romana, i romani assomigliano un po' agli inglesi, nel senso che loro mettono un governatore, si mettono d'accordo con Cleopatra, no? Addirittura era rapita, la vanno a riprendere, la mettono sul trono, Cesare ci fa il figlio, però sei un pazzo nelle mani delle legioni romane. Quindi chiaramente ha ragione il Signore, non sempre, anche in Gallia non è andata benissimo, purtroppo i Galli hanno avuto sfortuna perché Cesare voleva diventare quello che è diventato e quindi ha sterminato chi si poneva davanti, però ha fatto anche dei senatori, siccome era molto bravo nella propaganda, ha fatto dei senatori Galli, che fu uno scandalo pazzesco, però lì la cupizia di dire no, ma un momento, io non sono un conquistatore, io inglobo, però in tutto questo il Mediterraneo, sono contento che mi abbiano parlato di Cartagine, in tutto questo il Mediterraneo fu fondamentale per Occidente e Oriente, in quel caso ci furono i primi, questa era la cartina della Grecia, ve l'avevo messa, questa è la Magna Grecia, che era una penisola greca, a un certo punto diventata una penisola greca e quindi un pezzo in più di Grecia, ecco, anche se i greci grazie al Mar Mediterraneo scoprirono questa enorme terra, la chiamarono Magna perché non erano tanto bravi a fare le cartine geografiche, quindi per loro era Magna, quindi era bella grande, e nella realtà era più grande di, mi sembrava più grande di casa loro, perché sapete la Grecia è tutta un'insenatura, il nostro sud Italia invece era un po' diverso, e c'erano anche delle pianure, insomma era un clima anche un pochino più accogliente. Guardate che la Grecia aveva una zona, insomma, per vivere in Grecia non era semplice la vita in Grecia, infatti i greci è per quello che usarono il mare per espandersi, perché erano in realtà stretti tra le montagne e il mare, è una popolazione di quel tipo, molto rurale all'inizio, che poi però diventa raffinata. Il nostro sud Italia in quel caso lì rappresentò l'America, tra virgolette, cioè i greci si sentirono quasi a casa loro perché il clima era simile, se non quasi uguale, specialmente in Sicilia, e quindi ci costruirono un sacco di belle città. La cosa importante è che in questo passaggio, noi lo chiameremo di civiltà, i greci si fusero anche loro con le popolazioni locali, perché la civiltà greca non era una civiltà guerriera, quindi non spazzava via quello che trovava prima, semmai cercava di unirsi e comunque di andare a prendere delle cose positive o degli aspetti positivi di quelle società. La Magna Grecia fu poi conquistata dai romani, chiaramente, che si ritrovarono con delle città molto potenti intorno, ma riuscirono con una serie di passaggi nella storia a conquistarla. Ecco, questa è la catena che vi stavo raccontando prima. Come vedete, Roma era una potenza che diremmo terrigna, cioè all'inizio della sua storia del Mediterraneo se n'è praticamente fregato, nel senso che ha preferito espandersi da un punto di vista di terra. Quindi tutte quelle cosine che vi raccontavo nella scuola primaria, che forse sarebbe bene ricordare ogni tanto, quindi le battaglie con i Sanniti, i Volsci, i Marsi, i Sabini, gli Etruschi, addirittura ci sono stati dei re romani che erano Etruschi, perché chi è che si è bevuto la favoletta che Tarquinio Prisco in realtà era un re messo lì così? No, Tarquinio Prisco rappresentava la conquista etrusca della città di Roma, solo che poi Virgilio non poteva, Virgilio e Augusto non potevano raccontare in giro per il mondo che una città come quella romana, che dominava dall'Inghilterra fino alla Palestina, si era fatta mettere sotto da un popolino, e quindi si modificò quel pezzettino di storia. La stessa cosa che fecero gli inglesi con Re Artù, che non è mai esistito. Re Artù è un'invenzione propagandistica per dare un senso alle origini dell'Inghilterra. Quando gli inglesi furono a un certo livello di civiltà, si inventarono la storiella delle origini nobili, quindi il cavaliere della tavola rotonda e tutta quella storia lì inventata di sana pianta. Stessa cosa che fece Virgilio con l'Eneide. Si prese la storia greca, in quel caso la fine dell'Iliade, e si disse: ah, Enea è scappato da Troia e guarda caso è arrivato nel Lazio, per dare un po' di nobiltà. Anche qui però, se voi andate a ragionare, Roma avrebbe delle origini non occidentali, perché Troia sarebbe sul Bosforo, e quindi una delle più grandi scoperte scientifiche e storiche dell'universo. Per secoli si pensava che fosse una favola, poi è arrivato questo tedesco di quelli proprio duri, un semplice mercante appassionato di mitologia, e con grazie alla sua seconda moglie, che prese in procura, Schliemann si chiamava, si tra virgolette si comprò una moglie tramite un giornale, una moglie greca, e grazie a questo matrimonio andò in Grecia, poi salì verso l'odierno pezzo di Turchia, e lì stette quasi un anno a scavare, alla fine trovò Troia. Guardate che lo prendevano in giro tutti al suo tempo, non c'era una persona che avesse stima di Schliemann. Una volta che scoprì Troia, all'inizio sembrò una bufala, anzi qualcuno disse che ci mise lui i tesori che trovava, lui trovò dei tesori. Il governo turco a quel tempo lì aveva altri problemi, quindi disse: se ci dai metà del valore di quelle cose che hai trovato, per noi ti puoi tenere anche la scoperta. E quindi in maniera molto commerciale venne barattato questo. Schliemann pagò una multa, però divenne lo scopritore di Troia. E pensate, lo scoprì solo per passione, non è che lui proprio credeva fermamente, e chiamò i figli Agamennone e Menelao, ribattezzò la moglie, perché poi a quel tempo succedevano anche queste cose qui. Ecco, questa è una parte che riguarda più che altro l'Italia. Io ve l'ho messa, poi ripeto, se qualcuno vuole le slide adesso non sto. Ecco, questa parte qui è importante, perché intanto si inizia ad avere un discorso particolare di Mediterraneo, nel senso che sotto i Romani, quindi sotto la dominazione romana, iniziamo a non avere più solo una sponda del Mediterraneo, che sarebbe quella italiana, quella greca, chiamatela come volete, quella europea, ma iniziamo ad avere la sponda africana, e soprattutto iniziamo ad avere delle conquiste anche verso Oriente. Allora, in questo periodo qui ci sono due discorsi da fare. Intanto Roma si rende conto che c'è il Mar Mediterraneo, se ne rende conto perché c'è Cartagine, e soprattutto i Romani, da oggi a domani, si creeranno una flotta, perché i cartaginesi erano bravi a fare le guerre in mare, ma i Romani no. Quindi fino a quel momento lì era proprio un discorso strategico evitare di andare a combattere, perché i Romani, attenzione, loro avevano una strategia molto moderna, nel senso che hanno lasciato stare i cartaginesi finché non sono stati in grado di poterli sconfiggere. Quindi le prime scaramucce tra esercito romano e cartaginese furono su terra, e i Romani capirono che la situazione era loro favorevole, però sull'acqua non funzionò, e quindi da zero vennero pagati dei pirati per andare a rubare delle navi cartaginesi. Vennero studiate a tavolino e riprodotte con però delle modifiche. Il rostro, quindi quella specie di che possiamo chiamare come uno spuntone che c'è davanti alle navi romane, fatto di metallo, che va a incastrarsi, quindi a distruggere le altre navi, e poi c'è il ponte, che è un bel lucino, una sorta di ponte levatoio, che cos'è? È una truppa da sbarco, in pratica, è una moderna truppa da sbarco. Con questa invenzione ci hanno conquistato anche la Germania, perché usarono le navi per risalire il Reno. I Germani non se lo aspettavano una cosa del genere, quindi anche a livello militare i Romani avevano un quid in più rispetto alle popolazioni. Dovete pensare che i cartaginesi avevano dovuto fare una fatica incredibile per radunare un esercito che riuscisse a fare tutto il giro. Sapete, no, che Annibale è famoso perché ha fatto tutto questo giro qui, no? È riuscito a superare le Alpi con gli elefanti, che in realtà non servivano a niente, ma servivano solo a far paura all'esercito romano. Quindi, e poi ha sconfitto i romani e in vari punti, e la battaglia principale su terra a Canne vide l'esercito romano annientato. È famoso, quella battaglia diventa famosa perché Scipione, colui che poi sconfiggerà i cartaginesi, lui si trovava con suo zio a combattere in quella battaglia, e fu, siccome era un giovanotto di 18 anni, gli fu ordinato di andare tra i cadaveri a recuperare gli anelli. Sapete, i nobili romani avevano un anello con la casata, e lui andò a recuperare gli anelli e si disse che lì gli venne questa rabbia di andare a sconfiggere i cartaginesi. Nella realtà Scipione invece era abbastanza furbo, perché lui in pratica spese tutta la sua vita a dire quanto era bravo Annibale, perché più tu esalti l'avversario, dopo che lo sconfiggi sei più bravo tu di lui, quindi questa era la sua strategia. Quindi da zero fu proprio uno di quelli che creò la flotta romana, che ebbe poi la massima espansione nel nostro sud Italia, perché chi è stato a Napoli, all'antro della Sibilla, no? Quella roba lì, se facciamo il parallelo con gli Stati Uniti d'America, è il NORAD, cioè è il centro strategico militare. Quella era la flotta romana, guarda caso la NATO ci ha messo l'installazione proprio a Napoli, perché strategicamente Napoli è perfetta, eh? È perfetta Napoli, sei esattamente al centro del Mediterraneo, motivo perché la NATO ci ha fatto lì la sua installazione principale, il comando NATO è lì, non è a caso. I romani fecero la stessa cosa, qui c'era una flotta metropolitana, quindi che agiva sulle coste italiane, per antipirateria, e soprattutto pensate che le navi venivano messe in secca e fatte passare sottoterra in tunnel per circa 3 km, quindi la flotta romana non si vedeva. E nessuno in realtà fu talmente ingegnoso che non disse mai, perché quando arrivarono i barbari eccetera non aveva neanche senso una difesa di quel tipo. Loro si aspettavano sempre l'arrivo di nemici da questa parte qui, quindi verso sud, proprio nel Mediterraneo, e tralasciarono un attimino la parte nord. Infatti fu uno degli errori principali. Mi soffermo parecchio sulla civiltà romana, perché fu, ripeto, l'unica volta in cui il continente europeo aveva un'unica bandiera di fatto. Qui siamo, e vedete, erano state divise proprio, cioè, diciamo che ricalca leggermente l'Europa di oggi, e ci sono dentro però dei pezzi che al tempo non venivano, o che oggi non vengono considerati Europa, ad esempio l'Africa del Nord, che invece per i romani fu molto importante, fu parecchio importante, specialmente la Libia, la Tunisia, la Mauritania. E non confondetevi con la Mauritania che trovate nelle cartine geografiche, perché adesso è uno stato creato a tavolino e messo sotto, perché fu proprio, se vedete il confine disegnato, purtroppo per chi ci abita, perché è stato spostato e rispostato a causa del colonialismo. Quindi questa fu la massima espansione dell'impero romano, tra cui c'è, vedete, anche la Britannia. Le navi romane, ecco, questo è stato uno dei pochi periodi in cui nel Mediterraneo non c'erano pirati, perché ai tempi di Cesare fu addirittura pure lui, c'è un bel aneddoto che racconta che lui fu rapito dai pirati e si offese perché chiesero un riscatto troppo basso, disse ma io sono Cesare, ma ancora lui non era famoso, era molto vanitoso, quindi lui si offese con questi pirati e ogni sera gli raccontava delle sue imprese, e questi lo prendevano in giro, e lui ridendo diceva: un giorno io vi faccio tutti quanti impiccare o crocifiggere, dipende da come mi girerà. E il problema è che lo fece, nel senso che lui fu liberato poi, perché a Roma si riuscì a mettere via dei soldi per liberarlo, era un tribuno al tempo, e poi tornò a recuperare il bottino, perché chiaramente recuperò anche il pagamento che aveva dato per se stesso. E i pirati finirono male, nel senso che li uccise tutti. Ok? Quindi il Mediterraneo in questo caso qui è una sorta di grande lago, non ci sono più civiltà che si affacciano che non sia quella romana, e andrà avanti così fino alle famose, vedete, poi c'è un sistema stradale che, insomma, ecco, arriviamo poi alle invasioni barbariche del III secolo, che non faranno cadere l'impero romano, però gli daranno una smontata non indifferente, e il Mediterraneo però rimarrà sempre abbastanza ovattato, motivo per cui molte città grosse, quindi con popolazione di un certo livello, nasceranno anche in quel periodo, poi verranno ridistrutte purtroppo. Però per esempio la città di Barcellona in quel periodo lì ebbe una certa, si fortificavano e avevano come sbocco il mare, perché queste popolazioni che arrivarono dalla, sapete, queste, non lo dice quasi mai nessuno, ma queste invasioni furono colpa della Cina, perché fu la Cina a respingere in maniera brutale i barbari, quelli che noi chiamiamo barbari, quindi Unni e compagnia cantante, vennero completamente sparagliati dall'esercito cinese, che da poco, non da molto, la Cina era diventata uno stato unitario. La Cina ha vissuto per millenni guerre. Noi occidentali siamo abituati a pensare che il cinese sia uno. In realtà ci sono oltre 10.000 lingue in Cina e oltre 2.500 diversi tipi di, noi li chiameremo civiltà. Si sono fatti delle guerre tra di loro per circa 2.000 anni, poi è arrivato qualcuno che è riuscito ad unirli, si è parlato di impero celeste e da lì bene o male hanno avuto una storia abbastanza unitaria. In quel periodo lì, appunto, la Cina, che era una superpotenza, è riuscita a sbaragliare e a trincerarsi nel suo territorio. Questi chiaramente si sono rivolti dall'altra parte, solo che hanno impiegato 140 anni ad arrivare in Europa, perché sapete, erano popolazioni che si spostavano con una certa lentezza, finché c'era da mangiare stavano fermi lì, poi si spostavano, poi si spostavano e poi sono arrivati. Poi immaginatevi com'era l'Europa sotto l'impero romano, era un giardino, questi arrivavano dalle steppe e si ritrovavano al caldo, pieni di cibo, diventava veramente invitante. Quindi terzo e quarto secolo vi furono parecchi smottamenti, moltissimi, poi andiamo un pochino avanti, poi ci sono i vari domini, no? Che si vengono a creare, famosa la città di Aquileia, perché la città di Aquileia era la Milano del tempo, aveva un porto commerciale enorme e quelle che oggi noi chiamiamo fabbriche, e lavorava sul fiume, però lavorava anche sul mare. Quindi la città di Aquileia si spopolò, perché chiaramente era difficile da difendere, e gli esuli di quella città andarono poi pian pianino a fondare Venezia. E qui abbiamo un altro passaggio del Mediterraneo. Dopo la caduta dell'impero romano ci fu un periodo di stanca, quindi la pirateria, l'invasione, poi inizia anche l'invasione da Oriente, perché sta fiorendo nel frattempo la civiltà araba e sapevano navigare perfettamente gli arabi, quindi avevano delle navi veloci e sapevano combattere sia sulla terraferma che sul mare, e soprattutto avevano una civiltà raffinata, quindi che sapeva strategicamente capire anche quando era il momento giusto per attaccare, perché le civiltà di un certo livello è così che ragionano. Motivo per cui la famosa presa di Costantinopoli, che sarà nel 1400 e passa, sarà tra un nuovo polo orientale, quello che noi oggi chiamiamo l'impero ottomano, a quel tempo si chiamava la sublime porta, o il divano lo chiamavano in Europa, nel senso che, siccome sapete, utilizzavano il divano perché era un'usanza, quindi quella civiltà che era molto avanzata aveva nei suoi capi delle persone molto illuminate che sul comodino avevano tutte l'Eneide, l'Odissea, l'Iliade, eccetera eccetera eccetera. Quindi vi fu in pratica un ulteriore, molti europei lavoravano in quel periodo per gli arabi, tra cui moltissimi italiani. Adesso noi li chiamiamo genericamente arabi, lì sarebbero stati poi i futuri ottomani, quindi l'impero turco, ce n'erano tantissimi, come tanti pirati erano italiani, specialmente calabresi. Famoso il pirata Occhialì, in quel periodo lì, il famoso pirata Occhialì, che tutti sono convinti che fosse turco, in realtà lui era italianissimo, solo che i turchi pagavano meglio dei genovesi. Fu quello che poi venne, perché sapete, a quel tempo là, tra genovesi, veneziani e turchi, non è che andassero proprio erano tutti molto molto fissati sul denaro, nel senso che genovesi e veneziani, tra difendere Costantinopoli o tra farla cadere in mano ai turchi, sinceramente non è che gli interessasse molto, anzi qualcuno in Europa quasi quasi gliel'avrebbe pure lasciata volentieri, perché gli affari che si facevano con la via della seta era tutto in mano ai turchi in quel periodo là, quindi da un punto di vista commerciale era sicuramente meglio lasciare spazio. È chiaro che però i turchi non si sono fermati, o non si sarebbero fermati, a Costantinopoli. L'idea era quella di conquistare tutta l'Europa, quindi poi il Papa eccetera eccetera vennero alle mani con guerre sante, crociate, eccetera. La prima crociata, mascherata da spedizione per il Santo Sepolcro, fu in realtà una sorta di guerra preventiva, cioè avevano capito che l'andazzo era un pochino particolare e fu organizzata. Ma sappiate che i primi crociati erano pellegrini che andavano in giro tipo Brancaleone alle crociate, una massa di disperati. Quando le città europee vedevano arrivare la massa di pellegrini, chiudevano le porte. Questi si sono riversati su Costantinopoli e il Basileus, no, l'imperatore, ha dovuto pagarli per farli sloggiare, perché erano una cosa insopportabile, maleducati diremmo oggi, ma soprattutto persone completamente fuori, persone che non avevano nessun tipo di regola. Non dovete pensare al cavaliere crociato con la scuola, che fa la preghierina, erano proprio un'orda, perché furono raccolti quelle persone che nella società europea erano al di fuori del mondo del lavoro, erano al di fuori del... In quel caso lì il Mediterraneo non venne neanche toccato da questi personaggi, che passarono via terra, arrivarono a Costantinopoli e poi via terra si spinsero verso Gerusalemme e furono sbaragliati dall'esercito turco, perché l'esercito turco era organizzatissimo. Molto aveva anche preso dall'esercito romano. Una cosa in particolare, i giannizzeri, che erano i combattenti armati leggeri e tutti giovani, erano i figli i romani facevano uguale, infatti re Artù, erano i figli di coloro che venivano conquistati, gli prendevano il primogenito e lo facevano studiare nelle scuole militari turche. Di conseguenza tu, se vieni preso quando hai 5 anni, diventi molto fedele, perché in realtà diventi un soldato che ha in testa solamente lo stato che ti ha fatto crescere e ti ha dato da mangiare. I romani in Britannia fecero la stessa cosa, tutti i primogeniti, e poi li facevano tornare a casa loro, cioè li facevano tornare in Britannia. E anche non dovete pensare che al tempo anche delle guerre tra cristiani e musulmani durante le crociate, adesso noi abbiamo molto in testa le brutalità, ma guardate che il rispetto era abbastanza elevato, specialmente nelle battaglie navali. Venivano raccolti naufraghi e non venivano uccisi i prigionieri, venivano spesso riconsegnati. Gli ammiragli si conoscevano, infatti è famoso che a Lepanto c'è stato l'ammiraglio Doria, che sembra che si fosse messo d'accordo con l'ammiraglio turco per non arrivare alle mani, e la flotta genovese pian pianino si fosse spostata fino a che tutti quanti non si fossero accorti. Sapete quando uscite da una stanza in punta di piedi? Infatti la flotta genovese non fu praticamente toccata da nessuna freccia e da nessuna arma, e viceversa l'ammiraglio dello schieramento opposto era convinto che con questo stratagemma riuscire a inserirsi nello schieramento cristiano, ma poi per vari motivi strategici la battaglia è stata a favore dell'Occidente. Ecco, le due battaglie campali, tra mondo, a me non dico orientale, perché alla fine rappresentava, e sono state parecchie nella storia del Mediterraneo, fu una di queste la battaglia di Lepanto e poi il famoso assedio di Vienna, che però fu via terra, fu qua. In entrambi i casi ci furono due comandanti italiani, il Doria, che era un ammiraglio a Lepanto, e anche se non era lui formalmente quello che aveva il potere, ma era lo spagnolo, ma in realtà era lui che decideva perché era bravo e quindi lo facevano parlare parecchio. E invece al nord fu un duca che parente lontano di Savoia, ok? Quindi ci fu anche un pezzo d'Italia, perché poi a quel tempo la Chiesa aveva il suo esercito e quindi armava, vendeva, comprava, eccetera. Noi abbiamo perso un pochino quello che successe realmente in quei periodi. Abbiamo poi nel Mediterraneo una fase di stanca, nel senso che il 600, 700 vedono con la fine delle repubbliche marinare e la conquista turca di Costantinopoli, che fece scappare tutti i letterati eccetera in Italia, motivo per cui il Rinascimento poi ebbe anche alcune correnti molto particolari, ma tutto sommato in quel periodo là il Mediterraneo tornò ad essere un mare di seconda importanza, perché fu scoperta anche l'America nel frattempo, e quindi la Spagna, l'Inghilterra e la Francia diventarono delle potenze extra coloniali, extra mediterraneo. E le nostre repubbliche marinare, che erano superpotenze fino al 1500, piano piano dovettero, purtroppo per loro, e persero di importanza. Infatti Venezia poi fu di fatto conquistata dagli austriaci, e il sud Italia nostro fu di fatto preso dai Borboni, quindi dalla Spagna. Ce lo racconta Manzoni come andarono le cose. E quindi ci fu tutto il 700 almeno una fase di stanca. Il Mediterraneo era considerato quasi un mare di seconda importanza, la Francia costruì tutti i suoi porti sulla parte atlantica, la Spagna uguale, ma lo si vede, no? Alla stessa scoperta dell'America non fu finanziata assolutamente la spedizione da nessun re italiano, perché nessuno credeva che da quella parte ci fosse qualcosa che funzionasse. Si puntava tutto sulla via della seta, sull'Oriente, su questa zona qui. Qui c'è una via, la famosa via della seta, che ha sempre unito il mondo orientale con quello occidentale. Una delle città più importanti su questa via è proprio la città di Palmira, che oggi purtroppo è stata distrutta, e che è una città romana per costruzione, cioè noi la diciamo, in realtà è una città veramente ricca di culture che si sono incontrate in quella zona. I romani poi ci hanno costruito là degli edifici che sono rimasti, ma in realtà la chiamavano il fiore del deserto, perché era proprio una città bellissima, e soprattutto fu una città rispettata praticamente da quasi tutti, tranne dall'Isis, da quasi tutti i conquistatori che ci passarono. Nessuno si attardò mai a distruggerla, non lo fecero gli imperatori romani, non lo fecero i conquistatori ottomani, non lo fece mai nessuno. Purtroppo di recente abbiamo raggiunto dei livelli evidentemente più bassi di quelli dei nostri antenati, e abbiamo rischiato che questa città venisse completamente distrutta qua. Meno male che forse in loco ci sono stati i russi che hanno dato la spallata, perché sennò lì si metteva male, perché forse, a parte che molti filmati sono fasulli di distruzioni di musei, io sono contento, sono contento di averlo saputo. L'ISIS in maniera furba cosa ha fatto? Ci ha fatto vedere che distrugge tutto, poi però si è rivenduta ai reperti nel mercato nero, ma meglio così, almeno vuol dire che da qualche parte nel mondo qualcuno ha alcune statue antichissime, perché poi sono state distrutte, non cose occidentali, avessero distrutto il McDonald's, ma no, hanno distrutto delle cose, degli oggetti che erano stati recuperati con la missione antica Babilonia, quella dei militari italiani, e che erano stati rimessi nei vari musei. Purtroppo sono oggetti di una straordinari, perché fanno parte proprio delle civiltà dei primordi, sumeri, parliamo tavolette che speriamo ci siano ancora da qualche parte. Purtroppo io capisco, cioè bisogna anche entrare nell'ottica che in zone di guerra la popolazione non, quando succedono i guai, non è che può pensare a difendere le opere d'arte, e quindi uno salva la vita, e speriamo che in queste zone prima o poi ci sia una lungimiranza. Ma adesso vi racconterò anche perché siamo arrivati a questo punto nell'ultimo pezzettino. Siamo arrivati purtroppo anche agli esodi che voi conoscete oggi, perché secondo me il grande peccato storico del mondo occidentale, e avevo fatto una conferenza solo su quello, fu mettere nelle mani di un certo Lawrence d'Arabia tutta la politica medio orientale della prima guerra mondiale. Cioè gli arabi furono presi in giro, nel senso che inglesi e francesi dissero: se voi state dalla nostra parte, noi poi vi lasciamo la vostra autonomia, vi lasciamo, non ci sono problemi. In quel periodo le monarchie arabe erano molto attratte, come quella giapponese, dal modello occidentale, e quindi sembrava che l'affare fosse andato in porto. Purtroppo dopo la prima guerra mondiale ci furono, come si dice in politica internazionale, tre fregati: gli arabi, l'Italia, perché in quelle zone lì non prese un sasso, e anche se avrebbe dovuto, si arrabbiò per delle cose, per altre lasciò perdere, e la stabilità, perché l'area poi da quel momento lì, è vero che l'Iraq fu un protettorato inglese, i francesi, però nella realtà quella zona lì fu il risentimento di molte molte parti di quelle zone derivano proprio da quell'accordo che fu firmato dalle potenze occidentali, quindi in quel caso dall'Inghilterra e dalla Francia, e fu poi completamente disatteso. Cioè la Francia e l'Inghilterra si spartirono il petrolio iracheno, come sempre, e chiusero i giochi. Le popolazioni locali furono trattate come al solito, come se non esistessero, e dopo la seconda guerra mondiale fu aggiunto un ulteriore problema, che fu lo Stato creato a tavolino, lo Stato di Israele, che andò a incunearsi nel mezzo di una grande, no? Tantissime etnie che ci sono in quella zona, e però li ha tutte unite contro, nel senso che fu proprio fatto velocemente, delle volte anche un po' maluccio, e le conseguenze di quegli accordi lì, al tempo ricordatevi che tutte queste polemiche non ci furono perché da una parte c'erano i russi, da una parte c'erano gli americani, quindi è come con l'Europa. L'Europa non ha avuto guerre per 70 anni perché c'era il patto di Varsavia e la NATO. In realtà non è che sono grandi accordi tra Italia, Francia, c'era quel blocco lì. Nel mondo di oggi pensate come paghiamo quelle scelte di circa 100 anni fa, le paghiamo tutte sulla nostra pelle, perché il non fidarsi, io penso che se fossi nato tra la Palestina e l'Iraq, insomma, anch'io avrei qualche problema a fidarmi degli occidentali, o se fossi nato in Afghanistan, perché ricordatevi che tutti gli estremismi, tutti, sono stati finanziati dalla CIA, dall'Afghanistan alla Palestina, e i russi finanziavano dall'altra, è vero, però in Afghanistan i talebani, i famosi talebani che furono, no, vi ricordate la cartina di Bush che diceva gli stati canaglia, e tutti quegli stati canaglia erano praticamente creati a tavolino dagli Stati Uniti, nel senso che quando i russi invasero malamente l'Afghanistan, a differenza della conquista dell'Etiopia, perché poi qua qualcuno si dimentica che nello stesso periodo anche l'Etiopia venne presa dall'Armata Rossa e dai cubani, che da Cuba andarono in Etiopia, noi tendiamo a dimenticare alcune cose, e in quel periodo lì i talebani, che erano un nulla, mujahideen all'inizio, poi divennero estremisti, furono finanziati dalla CIA, e Saddam Hussein fu finanziato in toto dalla CIA e dagli Stati Uniti, perché in chiave anti-iraniana. Sapete, la guerra Iran-Iraq è stata una cosa tremenda, morti ammazzati tra curdi, poi Saddam Hussein ha approfittato per ammazzare anche i curdi, è stato uno schifo che è finito nell'89 con una promessa. Saddam Hussein aveva avuto la promessa dagli Stati Uniti, gli aveva detto: io vi ho fatto la guerra, ho fatto ammazzare il mio popolo e faccio il mio popolo, voi in cambio mi date il Kuwait. E solo che poi gli americani non potevano accettare, cioè gli dissero di sì, però poi chiaramente, perché se voi andate ad analizzare bene cosa successe in Kuwait, un altro punto della storia che ha a che fare con quello che vediamo oggi nel Mediterraneo, perché ricordatevi che tutto quello che succede in questa parte dell'Africa, che poi si riversa nel Mediterraneo, è purtroppo colpa di certe politiche scellerate. In quel periodo lì, purtroppo, il Kuwait divenne la mela da cogliere per Saddam Hussein. Lui se la prese, convinto che gli Stati Uniti non si muovessero. In realtà invece sbagliò i conti, perché gli Stati Uniti in quel caso lì decisero di non fare tra virgolette brutta figura con la comunità internazionale, si schierarono completamente dalla parte dei kuwaitiani. E infatti fu la prima guerra mediatica della storia moderna, perché se vi ricordate bene non c'era un media occidentale che dicesse che Saddam Hussein potesse avere una qualche ragione. Era per tutti considerato un dittatore sanguinario e furono perfino inventate delle cifre finte su eventuali eserciti, la quarta potenza. Io avevo trovato un articolo della Repubblica che diceva che l'Iraq era la quarta potenza militare al mondo. Non era vero, però ci caricarono talmente tanto. Io ricordo che avevo neanche 10 anni, ma ricordo anziani che andavano al supermercato a prendersi le provviste perché memori della seconda guerra mondiale. Anche mia nonna era molto preoccupata perché in fin dei conti noi in Europa non avevamo più avuto grandi scossoni. Quindi fu ben architettata quella guerra, ce la fecero passare come una guerra tra virgolette giusta, e il fattaccio su quello, quindi può andare a rimettere le mani in questo territorio che, come vedete, è lo stesso territorio, è sempre qui, il problema in Europa abbiamo avuto questi qui grossi problemi e qui, e questa non è Europa, però comunque tocca il Mediterraneo di riflesso. Ed è un peccato perché poi c'è anche il Caucaso, ovviamente, che non si parla mai del Caucaso, ma anche lì c'è una guerra, i ceceni. Proprio oggi c'è stato un attentato con la divagazione a San Pietroburgo. 90% sono stati, sapete, Putin con i ceceni, lui non ha un bel rapporto, perché i ceceni nel 99-2000 erano riusciti a sconfiggere la Russia di Yeltsin nella prima guerra cecena, e la Russia ha rischiato il cappotto, nel senso che se i ceceni si erano incuneati nella società anche del Dagestan, che è un altro stato, quegli stati con quei nomi pronunciabili ma importanti, avrebbero fatto collassare la Russia su se stessa. Infatti Putin fece un discorso in quel periodo che disse: noi non faremo la fine della Jugoslavia, e quindi andò abbastanza duramente a fare tabula rasa della questione, proprio una questione sua interna. Poi ricordatevi che il popolo russo, non appena tocchi determinate, lui fece leva moltissimo su quella guerra, su se stesso, per quello che i russi al 60% lo, anche se lui è un dittatore, ma lo apprezzano, perché sapevano perfettamente che la Russia sarebbe crollata su se stessa, si sarebbe spaccata in tanti stati, sarebbe rimasta a Mosca come il vecchio principato moscovita del 1200, ma sarebbe implosa. Motivo per cui l'attentato di oggi ritorna a mettere i puntini su una questione che noi occidentali pensavamo fosse risolta, ma che in realtà risolta non è. Contate che lì intorno c'è la Crimea, che ci sono altri problemi, e la Crimea è sempre stata russa, e ok, i russi poi ultimamente, anche ai russi è sempre interessato il Mediterraneo, infatti ci stavo arrivando, è che l'attualità ci ha fregato un brutto scherzo, e anche i russi hanno sempre avuto interesse nel Mediterraneo, infatti la base russa che c'è in Siria deriva ancora dall'Unione Sovietica, perché il Mediterraneo, volenti o nolenti, è un mare che ha dato il là a parte della conquista occidentale dell'intero mondo, nel senso che la culla della civiltà occidentale è partita da qui. Chiaro, e quando noi parliamo di civiltà occidentale o mediterranea dobbiamo fare dei distinguo, perché chiaramente il Mediterraneo ha una civiltà diversa probabilmente da quella del nord Europa, però con il passare dei secoli c'è stata una fusione, nel senso che quando noi parliamo di valori occidentali o comunque di modelli occidentali, anche di democrazia occidentale, noi parliamo esclusivamente di un modello che si rifà a quello greco-romano riiniettato in una società moderna. Il problema dell'Europa moderna di oggi, che tanti chiedono e capita di rispondere, il problema dell'Europa di oggi è che non ha un esercito, e sembra una sciocchezza, ma in realtà l'Unione Europea, Juncker, che non è stato eletto come Trump e ha, diciamo, anche come Putin, in parte come Putin, è stato chiamato da Trump il topo che ruggisce, perché quando si siede al tavolo di trattativa, Trump è uno che ragiona per armi nucleari, basi, economia internazionale. Cioè nel mondo moderno non è che i cinesi ragionino con le poesie dei loro grandissimi poeti, i russi uguale, e anche il mondo arabo ragioni così, tutti ragionano allo stesso modo. Siamo noi europei che siamo convinti di poter gestire delle situazioni di una gravità estrema con qualche chiacchiera e un ministro degli esteri che di fatto non sta rappresentando l'Europa, perché noi avremo la Mogherini che dovrebbe in questo momento preciso dire chiaro e tondo che cosa l'Europa vuol fare col Mediterraneo orientale e che cosa vuol fare con l'Unione, con l'uscita dell'Inghilterra, che cosa vuol fare con la Libia, perché quello è un problema direttamente italiano, perché noi ogni giorno spendiamo un sacco di soldi perché abbiamo le installazioni dell'ENI, quindi se ci dovessero partire quei discorsi lì male, quindi se derandiamo su quel discorso lì, noi avremo delle brutte gatte da pelare, motivo per cui vogliono fare il gasdotto, anche perché non si sa come andrà a finire in Libia, eh? Noi ci siamo alleati con uno che però adesso dall'altra parte non è, insomma, c'è un po' di confusione. La Libia meriterebbe una conferenza, ma neanche una, 10, perché è uno stato multietnico, tribale, quindi non è uno stato centralista. Gheddafi se l'era inventata quella cosa lì, nel senso che lui ha messo tutti sotto la stessa bandiera e dava soldi un po' di qua un po' di là. È famosa il suo modo di fare politica, comprava le macchine tedesche a prezzi molto alti e le rivendeva sul mercato libero a prezzi bassissimi per dare l'idea ai libici che quanto fosse bello vivere all'occidentale. Un'altra cosa che faceva è che non li faceva lavorare, perché la maggioranza dei libici aveva una sorta di reddito di cittadinanza. Questo non lo sa, non lo dice praticamente nessuno, ma è uno dei cardini della società libica. E tanti di quei ragazzi che voi vedete arrivare qua lavoravano in Libia. Molti si chiedono: ma come mai questi? Perché tanti lavoravano in Libia, nelle piattaforme dove viene estratto il petrolio, nei porti, facevano gli scaricatori, eccetera, eccetera. Quindi moltissimi di questi se ne stanno scappando. Il problema, ci sono due problemi perché queste persone, due cose che non vengono mai dette: perché queste persone arrivino così in massa sul Mediterraneo, togliendo i profughi siriani, togliendoli, perché quello è un discorso che bene o male conosciamo quasi tutti, quelli che vengono da Sierra Leone, Niger, specialmente Niger, non Nigeria, Niger, sono persone che lavoravano nelle cave di uranio della Francia, che in quella zona ha addirittura una moneta agganciata a Parigi, e in quella zona ha tre basi militari, in Mali, no? Ogni tanto si alzano gli aerei e bombardano, e continua a distruggere foresta, fare cave e tirare fuori uranio, distruggere foresta e fare uranio, ok? Quindi quelle persone che vivono lì, prima un po' se ne vanno. Il secondo problema dell'Africa sono i cinesi, che nessuno si permette mai di mettere, ma in realtà più che l'Inghilterra sono i cinesi, perché i cinesi stanno comprando tantissimi appezzamenti di terreno, perché non hanno più terreno a casa loro, e dicono: noi vi costruiamo l'ospedale, voi ci date il terreno. Bene, costruiscono l'ospedale e poi ne prendono il terreno. Ci lavorano persone del posto a costi irrisori, e soprattutto quel che viene prodotto lì va in Cina, non rimane lì. Quindi sono tutti prodotti alimentari che tornano in Cina. Quindi chi me lo fa fare a me di lavorare per un euro all'ora per i cinesi? Prendo e me ne vado. Motivo per cui il più grande campo per profughi dell'Africa è in Kenya, perché questa gente disperata da qua arriva qua e poi da qua si butta nel deserto libico. La Libia è uno stato che non è uno stato in questo momento, e poi si riversa nel Mediterraneo. E nella prossima conferenza parleremo solo di questo. Mi scuso se l'excursus storico non è stato super preciso in alcuni punti, però avrei dovuto avere 10 ore. Era per farvi solamente capire che quello che stiamo vivendo adesso è un esodo particolare, che storicamente, a me spiace smentire, però quelli che dicono che è già successo, non è già successo, perché le cose sono successe in tutt'altro modo, e anche in Africa ci sono stati gli stermini tra africani. Quelli che voi adesso identificate come africani dell'Africa nera sono di origine bantù e hanno distrutto completamente tutte le tribù che c'erano prima. Funzionava così una volta: io distruggo te, tu distruggi me, lui distruggo. Poi arabi e occidentali hanno depredato facendo schiavi, perché non è che eravamo solo noi, anche dall'altra parte se li vendevano con varie scuse, insomma eravamo tutti un pochino complici di questa cosa, noi i numeri uno ovviamente, perché tra gli spagnoli in America che ne hanno fatti di colore, gli inglesi in giro per il mondo che pretendevano che gli indiani si coltivassero il cotone e poi se lo ricomprassero a prezzo triplo, insomma ne abbiamo fatte di tutti i colori a livello commerciale, penetrazione economica eccetera. Dobbiamo tutti purtroppo, la conquista di un territorio è sì, ci sono più schiavi in proporzione nel mondo moderno che nel mondo romano, però se la proporzione, questo è grave, nel mondo moderno ci sono più schiavi perché ci sono schiavi tollerati. No, la proporzione, però sulla popolazione di adesso ci sono più schiavi che sulla popolazione di quel tempo lì. Questo è grave, ma lo sapevate, no? Cosa succedeva in Pakistan con i bambini che venivano messi a lavorare? Lì, occidentali, persone del posto, io non parlo della gente comune, ma parlo degli imprenditori del posto, imprenditori nostri che vanno lì e fanno gli affari. Cioè, qui ci sono talmente un intreccio di schifezze che purtroppo poi a rimetterci, magari perché la gente non ne può più, è la persona che vedi che in realtà è uguale a te ed è qua per motivi poveraccia. Quello che vi lascio qui se poi lo volete leggere, appunto, in questo io ho fatto, intanto vi trovate un piccolo excursus storico di tutta la questione e poi di come una delle soluzioni che potrebbe dare all'Italia un minimo di futuro nel Mar Mediterraneo al di fuori di quello che noi chiamiamo colonialismo, conquista eccetera eccetera, quindi più cooperazione con Tunisia, Libia, Algeria, Marocco, e meno magari a livello economico con pretese strampalate che arrivano magari dal nord Europa. Cioè dovremmo cercare di essere un po' un punto di contatto tra nord e sud, noi che siamo in mezzo, perché tanti problemi nostri, quelli del sud e del nord, non ce li vengono a risolvere, e se non ce li risolviamo noi però in una maniera intelligente, quindi creando stabilità in Tunisia, dando una mano su certi livelli, cioè ci vorrebbe una sorta di piano Marshall, in modo che le persone come noi, no? Vi ricordate, dopo la seconda guerra mondiale, il piano Marshall ci ha permesso di arrivare al boom economico, volete male o bene che fosse stato, comunque l'Italia si è risollevata. Bisognerebbe rifare la stessa cosa con il sud del Mediterraneo, perché senza quella sponda lì, per tutte le politiche che noi possiamo fare intelligenti, avremo sempre continuamente il problema. Però al tavolo della trattativa con i cinesi ti devi andare a sedere prima o poi, perché il problema lo stanno creando loro, lo sta creando la Russia a modo suo, perché la Russia fa i suoi interessi, non è che deve fare i nostri. Però l'Europa deve decidere se c'è stato il compleanno: o diventa una federazione con un esercito integrato e un capo eletto, o se no tanto vale stare ognuno per i fatti propri, tenersi la NATO e aspettare così le decisioni degli altri. Se aspettiamo le decisioni degli altri, sappiate che noi più siamo divisi e meno ci prenderanno nei tavoli di trattativa, perché gli americani, i russi penso che andranno in notte, quindi se noi non troviamo, noi ci eravamo illusi che il mondo fosse cambiato, nella realtà negli ultimi 12 mesi, per fortuna o per sfortuna, ci ritroviamo con dei problemi abbastanza grossi di ordine geopolitico. Io avrei concluso, se qualcuno ha qualche domanda me la può fare, se no vi darei appuntamento all'11 maggio, dove parleremo solamente ed esclusivamente del mondo moderno. Grazie.